Ragionate con calma. Il quadrato della velocità della luce da 9 per 10 alla 16 metri al secondo. Ora moltiplicate questo valore per la massa. Che risultato ottenete in Joule?